piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. C'è il giorno degli sconti, 30% se non vado errata. È una buona occasione per chi ha qualche sogno tecnologico in particolare. Tecnologia, abbigliamento, calzature, prodotti alimentari, ma anche automobili e viaggi, dai biglietti aerei ai soggiorni in hotel, tutto a prezzo scontato. Saranno 14 milioni in Italia ad approfittare nel fine settimana del Black Friday, la promozione che negli Stati Uniti segue la festa del ringraziamento e che nel nostro paese ha conquistato popolarità negli ultimi anni, anticipando il periodo degli acquisti natalizi. Si parla di un giro d'affari vicino al 1,5 miliardi di euro, con una spesa media sopra i 100 euro per cittadino. In Italia cresce anche il volume degli affari in rete, che dovrebbe superare, secondo le stime di Netcom Politecnico di Milano, gli 800 milioni di euro. In molte regioni vige il divieto di vendite promozionali a 30 giorni dal Natale, regola che non esiste su internet. E proprio in vista del Black Friday si allarga a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, la protesta nel centro logistico di Amazon. Oltre ai dipendenti. Scusate, domanda preliminare, poi non ne voglio parlare più. Ma il Black Friday non è una festa di importazione? Non siamo colonizzati dagli americani? Perché nessuno si straccia le vesti? Per Halloween mi avete fatto una testa così, un rito pagano, le nostre tradizioni cristiane, ci facciamo colonizzare, per due bambini vanno in giro con le zucche in testa, vestiti da stregoni, dolcetto scherzetto. Black Friday sembra che tutta l'Italia improvvisamente non abbia altro per la testa avuto da sette generazioni. Siamo tutti dentro? Vabbè, siamo tutti dentro. Benissimo. Allora oggi regaleremo come al solito un nostro contributo scientifico all'umanità. Scientifico, per quanto può essere scientifico, quello che è il parere statistico del campione di umanità che abbiamo a disposizione all'ora del soffritto. Che non è più l'ora del soffritto, è l'ora della salute, quindi è l'ora del post-salute. Detto questo, il Black Friday naturalmente è suddiviso in alcune categorie. Abbiamo esaminato, studiato, approfondito, estratto comunque con i nostri ricercatori quelle che sono le macro categorie. Ci piacerebbe sapere a quale di queste categorie appartenete, o se no potete appartenere ai dissidenti, a quelli che dicono: io oggi niente, non caccio fuori il becco di un quattrino, non compro nulla, non mangio, non bevo, non dormo, non cammino, non consumo. Perché? Perché mi ribello a questa colonizzazione americana. 800 24 0024, preparatevi a rispondere. L'agognato giorno del Black Friday è finalmente arrivato. Tutti pronti con le dita frementi sulla tastiera, occhi incollati al monitor, decine di finestre aperte in simultanea, mega caffettiera per tenervi svegli a oltranza. Praticamente avete trasformato la vostra postazione col computer in una centrale operativa della NASA. Bene, oggi vi sottoporremo a una profilazione in diretta. Chiamate all'800 24 0024 e diteci che tipo di compratori da Black Friday siete. 1. Tecnologici. Non potete fare a meno di comprare un telefonino ultimo modello, anche se quello che avete è di 6 mesi fa e funziona benissimo. Non resistete a comprare un televisore per passare dai 42 ai 60 pollici, che illumina a giorno il vostro salottino e vi trasforma in zombie. 2. Fashion addicted. Scarpe scamosciate, camicie alla moda bulgara, guanti sadomaso, cravatte infami, giacche a quadrettoni. Nulla che un essere umano possa indossare sfugge al vostro impulso fashionista. 3. Alimentaristi. Finalmente a casa vostra il famoso salume noce di prosciutto al pepe che si vendeva solo all'autogrill. Finalmente i pistacchi di Bronte, le alici di cetara, i capperi di Pantelleria e l'anduia di Spilinga direttamente nel vostro cucinino. 4. Strategici. Oggi avete comprato o comprerete tutti gli infami regali di Natale per non ridurvi il 24 dicembre a girare come disperati tra negozi mentre abbassano le saracinesche, a cercare la cornicetta d'argento per vostra suocera, le deprimenti culotte rosse per vostra moglie, la grappa bruciabudella per vostro suocero. Allora, mi sembra chiaro, no? Abbiamo fatto 4 macro categorie più la categoria esterna dei dissidenti. fa comunque parte del conteggio del dato che vorremmo estrarre dal vostro contributo. 800240024, vi riassumo le macro categorie. Il tecnologico, quello che oggi sta già guardando dove vendono tutto al 50%, si comprerà un bel televisore a tubo catodico, però lo pagherà la metà. Settore moda abbigliamento. Le cose più scamuffe le mettono in vetrina oggi, è robaccia per il mercato bulgaro, roba che non metterebbe più nessuno, roba vecchia, roba tirata fuori dai magazzini, però la vendono con sconto fino al 70%. Alimentaristi, oggi naturalmente tutti i grandi gourmet, tutti guardano tutti i programmi, i talent show televisivi dove si impiatta, per impiattare ci vogliono i coglioni di mulo, ci vuole il prosciutto al pepe, quel fantastico prosciutto al pepe che non troverete mai sul mercato, se non facendo il tour obbligato all'autogrill. Strategici, comprate tutto quello che cavolo vi pare per fare regalini di Natale, pensate che bello, oggi non si paga niente. Compriamo una marea di cazzate, così siamo pronti, le impacchettiamo, già un mese prima abbiamo tutto pronto. E dai, comprati la caccoliera in simile argento, comprati lo stura budella in platino simulato, comprati il cotton fioc con la raspa trivellatrice, insomma tutto quello che è utilissimo per regalare a Natale. Ermanno, il primo, Ermanno. Ah, buongiorno. Quale categoria delle quattro? Ah, scelga lei, io non ho fatto i regali di Natale, cioè avevo una lista pronta, un mix di elettronica, attrezzini fai da te, roba per la mountain bike, avevo la lista pronta, un click e l'ho mandato, fine, nessun... Sì, ma quale possiamo mettere allora, tecnologico e strategico a metà? Esatto, sì, direi di sì. Ecco, lei aveva già preparato la lista in precedenza, era già pronto... online una volta ogni sei mesi, quindi questa era una... un giorno è il Black Friday, l'altro giorno quando è? Un Black Ferragosto, perché generalmente quando tempo. Comunque adesso cominciamo a segnare tecnologico e strategico pari 20. Roberta, buongiorno. Quale categoria? Buongiorno. Categoria Gattari, credo, a questo punto. Gattari cos'è? Strategico? A questo punto sì, visto che continuo a trovare gattini. Ma lei compra dei gatti, non so, no, online? No, il mio fidanzato fa il meccanico e ne trova in questo periodo di freddo dentro le auto. Ah, dice quelli che rimangono abbandonati del motore per scaldarsi, esatto, poveri gattini. Quindi abbandonati. Paio, quelli che rischiano di diventare 4. Degli arrosticini, perché se uno mette in moto... O degli spezzatini con la ventola, tante volte non è che gli no, fa bene, guardi, al gattino. Sarebbe anche facile abbinare da bravo sommelier, però no. Sì, ma lei cosa compra? Allora, lei ha una casa piena di un rude uomo che tornerà con le mani unte di morchia, con il sudore di maschio addosso, quindi questa la riempirà di ringalluzzimento, che però si porta in mano dei teneri gattini salvati dallo spinterogeno. Esatto, l'immagine è bellissima, il meccanico con due piccoli gattini. Con due gattini pelosi, che anzi tiene per scaldarli sotto le ascelle pelose, pensi che bello. Ma cosa compra lei per gratificare questa scenetta? Sabbietta. Cibo. Allora mettiamo alimentarista, cibo per gatti, sempre cibo. Esatto. Grazie Roberta, grazie. Grazie, è grazie. Stato molto utile. Ermanno. Ermanno è fatto, Roberta è fatta. Beh, allora andiamo avanti, abbiamo dei contributi, sì. No, nemmeno dei contributi. Allora devo dire cazzate per 5 minuti finché non arrivano altre persone. Benissimo, avete visto, già dal primo sondaggio è stato chiaro, lampante, qual è il trend. Il trend è orientato parimenti spalmato su tutte le categorie. Rimane ancora esclusa la categoria moda abbigliamento. Perché? Perché chiunque si vergogna è come dire compro i vestiti a metà prezzo. È brutto dirlo, nessuno direbbe che comprerei vestiti in un grande magazzino. Con grande vergogna si dice dove l'hai comprato questo bellissimo cappottino. Si dice una via famosa dello shopping, non è che dice lo comprate ai grandi magazzini, all'ipermercato, a una liquidazione. Diventa sospetto quando uno comincia a vedere a metà gennaio dei completini da uomo in velluto marrone. È chiaro che roba comprata ai saldi. Dei bellissime gonne da donna con la fodera Barberi, che è roba degli anni 70-80. Ecco, li vedi addosso a qualcuno, la comprate ai saldi. Non vi vergognate. Abbiate il coraggio di seguire questo nostro impegno profilattico. Stiamo profilando le persone per capire esattamente quali sono le categorie di italiani che oggi acquistano. Michele, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Ce l'ho fatta a tirare per la lunga, dai, Michele. Senta, io faccio parte degli astensionisti. Oh, finalmente, un astensionista, la categoria zero. Mi dia le ragioni del suo astensionismo. Ma perché per il semplice fatto che secondo me tutto quello che ti mettono in vendita oggi, come dice lei, è tutta roba burbera, vecchia. E poi anche quella roba nuova che potresti trovare magari su Amazon lo stesso giorno, non al Black Friday, lo trovi allo stesso prezzo. Quindi che Black Friday in effetti è un po' da parvenu, perché gli amazzonisti, io ho un collega molto amazzonista, sa che ogni ora lo vedo alle 4 di mattina, che sa che a quell'ora magari trovi l'oggettino che nessuno lo vede. Se uno frequenta i siti di acquisti online, sa che le occasioni sono ogni minuto, ogni giorno, puoi trovare qualunque cosa. Oggi è soltanto per parvenu che pensa a fare il grande affare su Amazon, figuriamoci, c'è stato anche lo sciopero, non so se è rientrato, minacciato, sostituito, comunque non è che io comprando oggi fai veramente il grande affare, ma questo accade anche per i saldi. Mi dica lei, i primi 5 che riescono, che hanno fatto la fila dalle 4 di mattina ad acquistare qualche rimasuglio taglia 56, che magari ancora può essere un affare, il resto si piglia la roba di magazzino, o no? Sì, è così, è così. Quindi c'è un astensionismo non amatrice, anarcoide, ribellista, ma semplicemente pragmatista. Le dice, ma so sta roba. A me sembra una presa in giro tutto qua. Perfetto. Allora, astensionista, pragmatista. Dividiamo già in due categorie. Marco. Pronto? Buongiorno. Sì, l'ascolto. Allora, sono anch'io un dissidente. Di che tipo? Ecco. Pragmatista o ribellista? No, più che altro è che non c'ho i soldi per tirare avanti a fine mese, quindi... Ah, cioè... micragnista, la terza categoria. Esatto, poi un po' di solidarietà verso quelli che stanno scioperando, certo, ad Amazon. Tutti solidali con i compagni di Amazon, sì. Perché comunque è una categoria super sfruttata, io ho fatto 2 anni di NASPI, adesso mi trovo a lavorare come trasportatore e sono in quella... Cos'è NASPI? Scusi, sono ignorante. La NASPI è l'ex sussidio di disoccupazione. Ah sì. Cioè, quello che grazie allo Jobs Act, gente come me che ha 47 anni è uscita dal mondo del lavoro. No, perché io c'ho un'altra cassa, quindi si chiama in altro modo quella dei giornalisti. No, io mi ricordo quando ti sentivo quando facevi Golem. Sì. Tanto per sì. Dire. Comunque niente, solidale con i ragazzi che stanno scioperando. Quindi c'è una matrice politica nella sua astensionismo, diciamo. È come non comprare le scarpe di marca fatte con le manine dei poveri bambini indiani, cose del genere. Esatto. Ma poi soprattutto comunque questo Black Friday è soltanto fatto per farti comprare delle cose assolutamente inutili, che tu soltanto accecato dal fatto che sono scontate del 30-40% ti riempi di cose che poi sostanzialmente non ti servono. È lo svuota magazzino, diciamo, in questo senso. Va bene. Saluti perché sto uscendo a casa. Sì, è uscito. Simonetta, interessantissimo comunque l'astensionismo. Simonetta. Sì, buongiorno. Quale categoria la colloco? Astensionista. Però astensionista, visto che è emersa prepotente questa categoria degli astensionisti, dobbiamo dettagliarla, perché l'importante è lo studio, essere profilattico anche dal punto di vista dell'astensionismo. Di che categoria è l'astensionismo? Gliel'elenco, allora. Ci sono gli astensionisti ideologici anarchici che lo fanno per ideologia, come questo ultimo, per solidarietà ai compagni di Amazon o perché non bisogna essere americani, via dicendo. Quelli che lo fanno perché sono pratici e sanno che oggi non si guadagna niente, e gli astensionisti micragnosi che non hanno soldi. Quale di queste tre categorie? Pratica. Perché tanto oggi metteranno sui banconi tutto quello che non hanno venduto per un anno. E quindi lei dice, io la so lunga, so che oggi tanto è inutile. Ma assolutamente no, le occasioni in questi giorni secondo me non ci sono. Comunque vede, è interessante, lo dico ai colleghi che stanno lavorando nella farm scientifica che sta rilevando i dati, noto che i nostri sondaggi danno sempre delle sorprese, non possono essere predeterminati, per quanto loro ci abbiano lavorato, sono giorni che lavorano per determinare queste categorie con un criterio scientifico, emerge prepotente la necessità di classificare, di sottoclassificare la categoria degli astensionisti, quindi nonostante la grande fuffa che si è fatta oggi e tutti gli italiani impazziti, esiste una parte preponderante dal numero statistico, diciamo, delle persone che ci chiamano, che sono astensionisti dettagliati, però dettagliati in varie categorie. Ripeto, l'astensionista micragnoso, quello che non c'è soldi, non ce n'è proprio, anche se al 70% per me è troppo. L'astensionista pratico dice, ma io non mi faccio turlupinare, io comunque ci vado abitualmente a comprare le cose online e so che quando voglio trovo le mie occasioni perché so cercare. Gli astensionisti per principio, per diritto, non ci facciamo colonizzare, dobbiamo essere solidali con lo sfruttamento del mercato online e via dicendo. Molto interessante. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci che tipo di compratori da Black Friday siete. 1. Tecnologici. Non potete fare a meno di comprare un telefonino ultimo modello, anche se quello che avete è di 6 mesi fa e funziona benissimo. Non resistete a comprare un televisore per passare dai 42 ai 60 pollici, che illumina a giorno il vostro salottino e vi trasforma in zombie. 2. Fashion addicted. Scarpe scamosciate, camicie alla moda bulgara, guanti sadomaso, cravatte infami, giacche a quadrettoni. Nulla che un essere umano possa indossare sfugge al vostro impulso fashionista. 3. Alimentaristi. Finalmente a casa vostra il famoso salume noce di prosciutto al pepe che si vendeva solo all'autogrill. Finalmente i pistacchi di Bronte, le alici di cetara, i capperi di Pantelleria e l'anduia di Spilinga direttamente nel vostro cucinino. 4. Strategici. Oggi avete comprato o comprerete tutti gli infami regali di Natale per non ridurvi il 24 dicembre a girare come disperati tra negozi mentre abbassano le saracinesche, a cercare la cornicetta d'argento per vostra suocera, le deprimenti culotte rosse per vostra moglie, la grappa bruciabudella per vostro suocero. Abbiamo iniziato proponendo una operazione di profilaggio di quelle che sono le macro categorie dell'acquisto compulsivo in questo giorno di Black Friday. Abbiamo velocemente elaborato durante la pausa la nostra farm del soffritto, ha elaborato la categoria che è emersa, noi pensavamo che fosse residuale, ma è emersa prepotentemente, che è quella comunque dei dissidenti, quelli che oggi non vogliono celebrare questa sorta di rito collettivo globale. È divisa in 3 sottocategorie. L'antagonista, colui che non partecipa al Black Friday per un motivo politico, non vuole essere colonizzato, non vuole essere sfruttato, è un gioco capitalistico. Lo sfasulato, il termine è di radice partenopea, è poraccio, è quello che non c'ha i soldi, se non c'è, non c'è. Oggi non c'è nemmeno per un regaluccio da 1,50 euro. Lo sgamone è il furbacchione, quello che ci sta tutto il giorno su Amazon, dice ma proprio oggi mi volete prendere in giro, io da domani rifaccio i miei buoni acquisti. Marina, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, seguo regolarmente la vostra trasmissione. Benissimo. Allora, io volevo dirvi che acquisto un po' di tutto, da cibo per cani, cancelletti per cani, recinti per cani, piccoli elettrodomestici, grandi elettrodomestici. Sì. Cover per telefono, cover per iPad. Ma oggi soprattutto, dove intensifica comunque la sua ricerca? Cibo per cani. Dove compro io? No, oggi, no. Oggi cosa, a cosa privilegia? L'ultima volta ho comprato una lavastoviglie. Non l'avevo mai provato con elettrodomestici grandi. Ho provato, funziona, va benissimo, sono contenta. Se l'hai montata da sola? Se l'hai montata da sola a casa? No, avevo una persona che conoscevo, 20 euro me l'ha montata. Ah, quindi l'è arrivata a casa lo scatolone, lei ha chiamato Lumarelli che gliel'ha attaccato i condotti e funziona. E quella vecchia come l'ha smaltita? Quella vecchia l'ha portata mio marito in discarica. È gratuita. Lei aveva 2 schiavi a disposizione. Normalmente se uno fa un conto economico dice io quando la compro al negozio me la portano a casa e portano via quella vecchia. Anche per il marito, non è che si lavano solo per... Quindi conveniva far lavare i piatti al marito e comprarci un'altra cosa? No, certo che no. Comunque stesso modello. Comunque ho capito, lei è una tecnologica alimentaristi. Lei però... Per pagare poi... C'è sempre tempo, quello c'è sempre tempo. Per pagare c'è tempo. Poi una cosa interessante, è il secondo ascoltatore, nel giro di una mezz'ora scarsa, meno 20 minuti, che associa l'acquisto alimentare a cibo per animali. Questo è importante, è un dato sta venendo fuori. Oggi, diciamo, combaciano le 2 categorie dell'animalista spinto e dell'appassionato del Black Friday. Giuseppe. Buongiorno Gianluca. Sì. Io chiamo in qualità di professionista, sono un agente immobiliare. Sì. Io non compro nulla il giorno del Black Friday, era una questione politica, perché ho notato che... È antagonista, quindi gruppo dissidente sì. Antagonista, sì, perfetto. Sì, allora, ho notato una cosa, per quanto concerne l'acquisto, oserei dire compulsivo, da parte della massa, sì. Mi sta bene lo sconto sui prodotti di largo consumo, sì. Ci metto dentro anche il TV, a me non interessano sì. Queste cose. Ma quello che ho notato è che professionisti come me, io sono un agente immobiliare, applicano lo sconto sulle provvigioni il giorno del Black Friday. No, non è possibile questo. Lo fanno ed è anche pubblicizzato, e questo oggi ho visto questa ma roba non è una merce, è un servizio, mica vale per i bravissimo, servizi bravissimo, e c'è qualche idiota di collega agente immobiliare che applica uno sconto sui servizi quando il servizio è e deve essere eccellente sempre tutto l'anno. Ma la gente clienti. Abbocca questa cosa? Io penso di sì, che qualcuno cretino c'è sempre. Cioè, però mi scusi, mi viene proprio da ridere, cioè io devo comprare casa, che non è certo uno scherzo, richiede oggi, la compro oggi perché so che mi fa lo sconto l'agente immobiliare, sì. Ma come sì, posso sì. Chiedere una cazzata del genere, scusi? Sì, sì, sì, ed è anche successo, io lavoro per un'azienda molto importante, molto grande, l'anno scorso i miei colleghi ed io siamo stati, tra virgolette, obbligati ad applicare lo sconto a chi ci dava da vendere un immobile col Black Friday, applicando una provvigione di sulla vostra provvigione. Scusi, semmai lo sconto deve farlo chi vende casa, perché il bene materiale è quello che vende casa. Chiaro, chiaro, però secondo me in una logica di servizio che deve sempre essere alta e qualitativamente i nostri servizi hanno dei costi fissi che non si possono prescindere, applicarlo anche al professionista che sta dando una qualità mi fa molto sorridere la cosa, perché potrebbe essere applicata a tutte le categorie, cioè anche al medico, cioè al medico, all'imbianchino, all'idraulico, al meccanico, ma si allarga, come fosse il giorno del grande risparmio per tutti. Ma infatti, di tutto questo risparmio qualcuno ci rimetterà, cioè a Perugia dicono una frase che è un po' volgare, ma la dico, ma il cul chi il mette, dicono a Perugia, per dire poi alla fine chi è che ci rimette in questa cosa qua, secondo lei? Allora, secondo me ci rimettono quelli che in difficoltà in generale cercano di far fuori fondi di magazzino, perché poi ci guadagnano. Ma non sempre, perché a volte si è costretti a rivendere il proprio magazzino, faccio un esempio, chi ha degli stock di merce già pagata, sì. In Italia quella merce viene tassata come magazzino, e magari deve rivenderla o sotto costo o rientrare di quello che ha tirato fuori, non sempre c'è un guadagno, perché comunque le tasse le si pagano. In tutto questo, secondo me, le multinazionali ci stanno sguazzando. I piccoli invece, come al solito, prendono bastonate. Ma questa è una bella lettura, non è, diciamo, il tema della trasmissione di oggi, che oggi ha un fine di trovare comunque una media plausibile del nostro pubblico, però è interessante questa cosa qua, che in realtà il venerdì è nero proprio per chi oggi piange, non tanto per chi oggi sorride, e chi sorride poi è una percentuale piccolissima. Grazie. Luciano. Buongiorno Nicoletti. Sì. Io non so in che categoria posso essere interessato. La posso aiutare? Mi dica, certo, cosa acquista oggi. Mi hanno bombardato da 10 giorni a questa parte con email del Black Friday. Figurati. Vado a vedere ieri se quell'articolo che volevo fosse disponibile, invece è sparito. Questo è il minimo. Quindi avrei voluto, ma non ho potuto, non per ragioni economiche, ma perché semplicemente il prodotto non c'era più. E in altri zoo, in altri siti, invece era a prezzo pieno. Guardi, probabilmente abbiamo una farm velocissima, hanno elaborato un'altra sottocategoria, perché lei è chiaramente un antagonista, è il citrullo, è il numero 4. Ecco. È il citrullo, è quello che si illude che probabilmente che quella cosa bellissima che accarezza e sogna per tutta la settimana, poi quel giorno guarda caso non c'è. Però c'è un'alternativa, lei voleva una giacca tecnica per andare in montagna a prova di acqua e di pioggia, ha un bellissimo giaccone in velluto a coste marrone che è la stessa cosa. Antonio, no, in quel caso no. È lo stesso prezzo e danno quello, e che vuole, se no che Black Friday è. Antonio. Sì, buongiorno Nicoletti. Allora guardi, io chiamavo perché io sono uno di quelli che compra veramente di tutto su Amazon, e quasi tutti i giorni dell'anno, cioè a volte addirittura faccio delle cose. Allora è uno sgamone lei, uno sgamone. Ma diciamo di sì, perché a volte sgamone. Da che faccio, vado nei negozi, provo delle cose e poi le cerco su Amazon. Certo, e le doppio sgamone, perché va al negozio, prova le scarpe, che belle, che numero è, 42, perfette, come sì, sta? Esatto. Ci pensa, prende lo smartphone appena è fuori e se le compra, chiaro, sì, e paga meno. Però ecco, nel giorno del Black Friday invece non compro praticamente nulla, perché mi sento un po' truffato, nel senso che sembra un po' una pratica furbetta quella di dire che ci saranno degli sconti, poi invece alla fine... Eh beh, è uno sgamone, no. Qual è? Guarda, rientra perfettamente, è uno sgamone, inutile che ci gira intorno, la diagnosi è sgamone. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci che tipo di compratori da Black Friday siete. 1. Tecnologici. Non potete fare a meno di comprare un telefonino ultimo modello, anche se quello che avete è di 6 mesi fa e funziona benissimo. Non resistete a comprare un televisore per passare dai 42 ai 60 pollici, che illumina a giorno il vostro salottino e vi trasforma in zombie. 2. Fashion addicted. Scarpe scamosciate, camicie alla moda bulgara, guanti sadomaso, cravatte infami, giacche a quadrettoni. Nulla che un essere umano possa indossare sfugge al vostro impulso fashionista. 3. Alimentaristi. Finalmente a casa vostra il famoso salume noce di prosciutto al pepe che si vendeva solo all'autogrill. Finalmente i pistacchi di Bronte, le alici di cetara, i capperi di Pantelleria e l'anduia di Spilinga direttamente nel vostro cucinino. 4. Strategici. Oggi avete comprato o comprerete tutti gli infami regali di Natale per non ridurvi il 24 dicembre a girare come disperati tra negozi mentre abbassano le saracinesche, a cercare la cornicetta d'argento per vostra suocera, le deprimenti culotte rosse per vostra moglie, la grappa bruciabudella per vostro suocero. 800 24 00 24, è difficile tirare delle conclusioni, ancora abbiamo del tempo, però diciamo che da un primo esame il nostro risulta essere un pubblico alfabetizzato, con un forte senso di dissenso, di autonomia, un'ideologia incline alla ribellione, perché siamo partiti per classificare le categorie degli acquirenti, ma emerge una sorta di base gattara che compra cibo per gatti come classe privilegiata, ma in realtà è forte l'elemento del dissenso, abbiamo una prevalenza di sgamoni, abbiamo una categoria di citrulli che questa è abbastanza segnalata, ma soprattutto sono antagonisti e sgamoni, cioè persone che si muovono nella rete, hanno quella sorta di guascona ribellione per tutto ciò che rappresenta una moda corrente molto frequentata. Stefano, buongiorno. Buongiorno. E senta, io penso di rappresentare nella categoria degli sfigati, perché... gli sfasulati, sfasulato del... citrullo, scelga, a secondo mi dica e poi glielo dettaglio. Ma forse citrullo. Sì, perché? Perché volevo approfittare del Black Friday per acquistare dei prodotti che acquisto abitualmente. Sì. E quindi volevo approfittare per avere degli sconti. Faccia un esempio di categoria merceologica, così capiamo. Ma, per esempio, io acquisto sempre una schiuma da barba, sì, inglese, si chiama Mr. Taylor, sì. Mr. Taylor di Old Bond Street. Sì, è una raffinatezza un po' esagerata, sì. Va bene, lei la trova in Italia a buon prezzo? No, in Italia non si trova solo su Amazon. Solo quella cremina lì, ma perché lo c'ha di speciale questa cremina inglese che rispetto alle altre? Ha una buona profumazione, scivola meglio quando la usa. Sì, si usa per la rasatura classica, diciamo, quella a pennello. Ha provato a comperarla oggi, cosa è accaduto? Allora, no, io la pago sempre 9,90. E oggi invece quando la trovate? 14,90. Giù, pieno di citrullo. Lei è citrullo, per lei il Black Friday praticamente è pagare il doppio, il triplo, quello che compra normalmente. Sì, però non l'ho comprata. Perché la compri, sennò che citrullo è, scusi. Ah, è la vero, deve comprare. La compri questo subito, anzi, ne prenda uno scatolone. Dove la trova mai un'occasione così di spendere il triplo rispetto a quello che spende abitualmente? Fabio. Buonasera, buongiorno Nicoletti. Sì. Io rientro nella categoria, penso, amazonista, compulsivista elettronico. È sgamone e allora lei è sgamone, quindi oggi non compra, e è tecnologico in quanto oggi se compra roba elettronica. Bravissimo. Sì, va bene. Ormai cioè, abbiamo una certa dimestichezza. Scusi, cioè, dopo mi dicono che il retail è in crisi, ma io dove posso trovare un posto dove compro un prodotto? Lo provo. Dove compro? A casa. Mi piace. Sì, non mi piace, lo restituisco e mi rimborsano tutto. Sfonda porte aperte, si figuri. conosco persone che non faccio nomi, che mi sono molto vicine, che comprano, che ne so, una simpatica giacchetta elegante, la sera ci escono in un bel invito, poi la rimandano il giorno dopo, hanno fatto i fighetti, è proprio una persona che lavora con me, fa questo spesso, la compra, ci scatta due foto e poi gliela rimanda, capito? Vabbè, oggi cosa compra? Oggi cosa compra lei? Oggi ho comprato una bilancia. Una bilancia elettronica intelligente, quello che misura. Lei si pesa tutta la famiglia e poi gliela rimanda, fatto. Sì. Perfetto. Ma guardi che se io non ho dato quella cosa lì, non va bene. Il massimo che fanno. Però mi aiuti, visto che è importante. Secondo lei, fino a che livello si dovrebbe arrivare? Se io volessi dire, faccio una scommessa. Voglio vivere senza spendere. Compro tutto per rimandare. Quindi cosa posso comprarmi oggi? Tutto. Cioè, meno i profilattici che rimandati indietro usati. Poi uno li mette a posto, li sigilla, glieli rimanda Amazon. Qualunque cosa può essere acquistata e rimandata. Qualunque cosa. Faccio un esempio. Lei la bilancia la compra. Ci pesa la moglie, la figlia, la suocera. Tutta la famiglia la rimanda, in tonza. Poi cos'altro? Posso decidere se farmi rimettere il buono o se farmi dare i soldi. Anche le scarpe lì, poi danno pulita alle suole. Già fatto. La comprate, la usate, la rimane. Poi se le tiene in casa, lei mette a caso, c'è un invito elegante in casa. Casa sua magari è tutto pulito, sì. Il pavimento. Sì. Si mette le scarpe fantastiche, belle scarpe, caro, sì cara. L'ho messe per togliermele per te. La mattina dopo le rimpacchetta, gliele rimanda. E si rimette le sue ciabatte puzzolenti. Ma dirò di più, se l'acquisto addirittura non è per loro ritirarlo, le mandano, le rimborsiamo il tutto, si tenga pure l'oggetto. Ma per fantastico. Vedi che ci sono dei sistemi per muoversi abilmente nelle maglie. Allora mi sembra che lo sgamone tecnologico e il paraculo, che è l'ultima categoria che abbiamo appena inaugurato in questa ultima telefonata, sono quelli che prevalgono. Abbiamo un pubblico che in realtà non si lascia abbindolare da quelle che sono le mode che vengono dagli Stati Uniti e è legato alle sue forti tradizioni di fare sempre il furbo. Alla prossima!